so le parole. Ma mettila un volume, a un tono che riesce a cantare. Non vuole ti geri polvere, per gli altri vedeva si ci sta. Penso, ho dato a Maya la ciana, l'ha ritirato a Maya stasera la ciana. Una volta solo la sera, perché le dà anche una massa, se non le cara per le spese, cara mia. Ah, ecco, ora i greghi furbi di... Che tabatta. Due volte se i cari mangiano meno una volta al giorno. Dipende da come ti abitua ben. Una volta al giorno ci riesci. La ciana a Caila. Al tuo che grasso. Non si chiama Giovanni? Romy. Ah, è famosa. Bellissima. Si chiama Giuda. E invece una la mia si chiama Buba. Buba. La Buba, sì. La Buba perché si apre Buba? Aspetta, che era il motivo? Ah, Buba, l'era quel del film... No, ma non Buba. Bube. Buba, sì, l'era il film... Ma era uguale Stellari? No, no, no. No, è quella del quella... Forrest Gump? Forrest Gump. Ma era lo Buba. Che Buba la... Ah, del Forrest Gump. Che è quello che... Che fa i gabberetti. Quel che fa i gabberetti. Che lui era è il Buba. Proprio, Buba, Buba. Buba perché la mia famiglia come Forrest Gump, il disastro, allora, sì. Però dopo abbiamo uno in affido, vero? La mia. Come si chiama? Mia? Mia, ma le sua. Mia, le sue che là, però che là mi ha dato Dio culo, le mi ha dato Dio culo, me l'ha messa lì, che adesso sorella della Buba, la mia. No, che la mia, le sue, cioè la mia, della mia, ma è la tua, no, è mia, le sua, è la mia, tua, e vai tutti i giorni alla gamba e altro, questo tipo, però una volta metti la macchina sempre in corsa, adesso le metti a custosa, le metti a custosa, e finì, e dopo ogni tanto manca il cane, lei via, questo qua, e qua Fabio, sto Fabio qua, ma secondo me ha dei problemi esistenziali. Se vedessi Fabio, mi l'ho visto quando l'ho fatto io. Quando l'ho fatto io, era là che tendia la mamma, l'hai inumato? come stai? Stai bene? Tutto bene? E Ila non la risponde. Perché io devo che oia, ma se no secondo me la voleva rispondere. La mia o la tua? La mia. Insomma, mi diria di fare quella di radice. Quella è famosissima. Si può fare quella di radice? È molto semplice, Fede. È proprio terra a terra, dai. Ecco, se non è terra a terra, è radice. Danduello. Non so, è Danduello quel Fabio lì. Ma lei è molto schivo, un personaggio molto... Sta arrivando il cazzo. La cazzola, la ganca, la cosa questa. Ah, esatto, è broccoletto. No, è ganca. Allora, devo raccontarvi l'antefatto di Radici. Vi racconto? È la quella di Radici? Sì. Ma sì, dai, sono... No, che piace mia tanto. No, vai. Sì, sì, grazie. Aspetta che alzo il volume. Aspetta che alzo il volume. Giusto partire. Alzo tutto il volume. Blusata. Blusata. Perché era venuto pure a Fede, Radici un broccoletto. Perché il broccoletto che ho visto... Alzo tutto qua. Portati da un... Aspetta che alzo tutto, alzo. Niente, solo foglie. Anche alzo tutto, grazie. Infatti del frigo una roba. Ci sono solo le foglie. Ma il broccolo è gustoso, è così? Ah, ma a volte che è un po' tossico. Da fioretta. Ma allora fatemi dire come cosa si funziona e così. Ma che è che tirare fuori quelle più vecchie? Le cose del Maico ovvi duri, la ciana però a parte scherzi la fa un desfritto desfritto del broccoli, allora dei broccoletti venivo antefatto di radici che non gli è i broccoli. Allora eravamo sotto le feste qua delle feste guardi serene sotto e canto il mio amico era un venerdì e al venerdì a Somma Campagna che è il Marcà è cato il mio amico Alfonso che non è l'Alfonso perché non è mica ancora mio amico, può darsi che diventerà anche mio amico trettene. Ecco, questo qua trova Alfonso Principe, si chiama Alfonso Principe, non è principe lui, si chiama così Alfonso Principe, non è principesco, principe Alfonso suo padre cieco. No, lei dal Molise, da Campobasso. Non è mia cieco. No, no, le orbo.